da coppa e vino e speranza, gioventù, fratellanza, pastellese e yalla la la, pastellese e yalla la la, una battuta a femmine di fuoco, un porco che scoppia a scala, una vampata. E yalla la la, pastellese. E yalla la la, Thank you. Thank you. We'll be right back. Ognuno di noi, la che si scede, piglia bene o male diventa.